Allora, vi volevo chiedere, se uno dice la questione ambientale, quali sono le cose che vi vengono in mente? Vediamo quanto è ampia la questione ambientale, quali sono gli ambiti, che ne so, uno può dire la plastica, bene? La plastica che finisce nel mare, questo è un aspetto. Quali sono gli altri aspetti? Vediamo cosa avete in mente, ecco. Se pensate alla questione ambientale, che tipo di questione è? Quali sono gli argomenti? Quali sono le problematiche? Ok, prego. Io ho visto un video che parlava dei rifiuti nello spazio. Sì. Buona, ottima osservazione. Cosa sono i rifiuti nello spazio? Qualcuno ha un'idea? Prego. Cioè, ho visto anche io delle notizie su che sono le piante nello spazio. A voce alta? Però non è questa pianta. Non sai cosa. No, però ho visto. Mohammed, te? Potrebbero essere. A voce alta. Bravo, esattamente. Sì, i satelliti artificiali spesso vengono abbandonati nello spazio, non vengono recuperati, entrano in disuso, continuano a fare una loro orbita, piano piano perdono energia, oppure possono essere centrati da un meteorite e possono spiraleggiare sulla Terra. Bene, vanno a cascare sulla Terra. Possono cascare un po' ovunque, li seguono. Potrebbero arrivare anche qui. Chiaramente la probabilità che colpiscano la terraferma, essendo il nostro pianeta ricoperto di acqua, l'acqua degli oceani, per quanto? Per quale percentuale? Ce l'avete il cellulare? Utilizzatelo. Vediamo chi trova la risposta utilizzando il cellulare. Come dici? 97,5% sarà 5. Quanto? 1,5 miliardi di chilometri cubi. 97. No, no, ma la superficie. 71%. 97% quello dell'isolato. Ok, 71%. Va bene. E quindi, vedete, è più facile che finisca negli oceani, ma non è detto. Uno si potrebbe interessare andare a vedere ogni volta, perché poi c'è un altro aspetto: durante la caduta può anche disintegrarsi, d'accordo? E diventare una piccola stella cadente. A volte però questo non accade. Poi studieremo in terza o in quarta in fisica come funziona satelliti artificiali, come si fa a metterli in orbita e così via. Allora, questo è un aspetto importante, sì. Altri aspetti? La questione ambientale, prego. Estinzione delle specie animali. Bravissima, bravissima. Il polare, ad esempio. Sì. Nella storia, diciamo, nella storia del pianeta Terra, quanti anni ha il pianeta Terra? Quando si è formato, chi si ricorda? Chi lo sa? Prego. 5? Giusto. Allora, 5 miliardi di anni fa. La vita quando è comparsa sulla Terra? Noi ci siamo sempre stati in questa forma? No. Certo che no. Andate a vedere. Dopo non moltissimo, la vita è comparsa sulla Terra. Quindi una domanda è: quando e in che forma è comparsa sulla Terra? Ecco, sì. E poi si è evoluta. Gli organismi, i primi organismi, non avevano nemmeno un nucleo cellulare. Grazie alla cooperazione, alla simbiosi, due cellule si sono messe una dentro l'altra, in pratica. Sono dalle cellule procariote alle cellule eucariote. Poi le cellule hanno cominciato a collaborare tra di loro. La vita è una storia di collaborazioni. Il nostro stesso corpo è fatto di cellule singole che collaborano. La natura ha scelto la cooperazione. Noi potremmo pensare se i neuroni di cui è fatto il nostro sistema nervoso non collaborassero tra di loro? Il nostro sistema nervoso è fatto semplicemente di neuroni che si accendono o si spengono mandando un'informazione, un segnale. L'effetto cooperativo di questo sistema di miliardi di neuroni ci fa pensare, vedere, ci fa parlare, ci fa ascoltare, ci permette di interagire, di comunicare e così via. Va bene? La vita è una storia di miliardi di anni di evoluzione possibile tramite la collaborazione. Va bene? Allora, le estinzioni. C'è un'autrice importantissima che ha scritto un libro recente che ha avuto molto successo, che è intitolato La sesta estinzione. Secondo questa autrice, questa studiosa, noi siamo in prossimità di una sesta estinzione, perché vuol dire che ci sono già state sul pianeta Terra 5 grandi estinzioni. Bene. dalle quali il nostro pianeta si è ripreso, ma oggi siamo in prossimità di una sesta estinzione, la più catastrofica. Bene. Chi fosse interessato, se scrivete un po' così troviamo l'autrice. Sesta estinzione, la sesta estinzione, vediamo se troviamo il nome dell'autrice. Elisabeth Colbert. Giusto. È un libro interessantissimo. Racconta le varie estinzioni nel mondo. Cosa succede se Elisabeth Colbert. Cosa succede se l'ambiente naturale in cui vivono determinate specie è alterato o ridimensionato o addirittura distrutto? Prego, Mario. Si estinguono, a voce alta. Cioè, si estinguono perché non hanno avuto una via adattarsi a quello che è. Parla a voce alta. Si estinguono perché? Perché non hanno avuto abbastanza tempo per adattarsi a quello. Ecco, sì, gli può mancare il tempo di adattamento, e qui è interessante domandarsi qual è l'interazione tra le varie specie, d'accordo? Cioè, una specie può vivere isolata dalle altre, può vivere completamente isolata dalle altre. Sentiamo cosa ci dice. No, perché devono alimentare. Anche, sì. Tu cosa dici adesso? Ad esempio, ci sono delle piante che si adattano proprio a veicoli, ma gli uccelli. Ok, quindi teniamo presente quello che diceva lui. Per alcune specie la presenza, diciamo, di altre specie è proprio una risorsa, sì. D'accordo? Quindi sono interdipendenti, legati l'una con l'altra. C'è una sorta di equilibrio dinamico che è meraviglioso. Intanto vi racconto questo, che c'è un artista, sapete cosa fa? Lui si è reso conto che noi siamo cresciuti, diciamo come specie, all'interno di tanti ambienti naturali diversi, tra cui la savana, ma anche conosciamo, lui dice, atavicamente conosciamo i suoni e le voci delle grandi foreste. Allora lui, sapete cosa fa? A proposito di estinzione, lui sa che i suoni, le voci che si generano, la musica, una sorta di grande sinfonia, la farò ascoltare, che si generano all'interno delle grandi foreste equatoriali, si estinguerà questa sorta di enorme sinfonia, no? Allora cosa fa? Va all'interno delle grandi foreste equatoriali, nelle diverse condizioni, nei tempi diversi, in stagioni diverse, in momenti diversi della giornata, e registra. E registra con apparecchiature sofisticate, la voce della foresta. Ed è meraviglioso. Ora vi dirò come si chiama, e lui ha un sito, ma per dirvi che è un artista che lavora avendo fatto questa scelta. Tra un attimo vi saprò dire come si chiama, perché ora mi sta sfuggendo il suo nome, e ciascuno lo può cercare sul proprio cellulare, e se volete poi lo condividete sui social, eccetera. Allora, è un maschio o una femmina? È un maschio. Beh, queste cose le possono fare anche le femmine, credo, no? Tu che dici? Tutti possono. Certo. Tutti quelli che... Allora, si chiama David Monacchi. E la sua opera l'ha intitolata Frammenti di estinzione. Va bene? Ha un suo sito, lo potete ascoltare in vari interventi, ce n'è uno su TED. L'hai trovato? David Monacchi, Frammenti di estinzione. C'è video. Ci sono video. E vi consiglio d'ascoltare le registrazioni direttamente dal suo sito. Ascoltatele la sera quando siete in camera. È già messe? Però non si sente bene così, sai. Ah, ma questo è lui che parla. Vabbè, però ora aspettate, ora chiudetelo. Semmai se qualcuno di voi è interessato, che vuole approfondire, vuole fare qualcosa in questo senso, ben venga, va bene? Allora, quindi l'estinzione, abbiamo detto, un aspetto estremamente importante. Stavamo dicendo, tutte le specie sono interdipendenti. Noi siamo dipendenti dalla presenza delle altre specie? Certo che lo siamo. Siamo interdipendenti esattamente come le altre specie animali o vegetali. Tagliare un albero ci può essere indifferente? No. Perché? Perché dite di no? Chi vuole dire? Chi se ne frega, un albero in più, un albero in meno, una foresta in più, una foresta in meno. Che ci può interessare? Ci può interessare? Che dite? Perché? Ossigeno, per esempio, giusto? Certo. Ecco, microclima locale. Tu cosa dici? Esattamente, sì. Quindi microclima locale, ma anche clima globale. Prego. Magari l'ambiente, cioè se distruggiamo l'ambiente degli animali, quegli animali li dobbiamo mangiare, e se non ci sono, mangiamo. Anche, certo. Sì. Allora, questo è un aspetto importante. Va bene, andiamo avanti, altre la questione ambientale cerchiamo di problematizzarla, cioè di capire quali sono gli altri aspetti. Cosa vi viene in mente? Cos'altro vi viene in mente? Perché questo libro che abbiamo scritto serve ad allargare proprio il panorama che è assai variegato della questione ambientale. Vi viene in mente qualche altro tipo di aspetto legato alla questione ambientale? Chernobyl, cosa vuoi dire? Chernobyl, cosa vuoi dire? Quindi Chernobyl, tu dici le radiazioni, a causa delle sue radiazioni ha influito, stavi dicendo, Marica, sulla natura circostante. Allora, sì, cos'è Chernobyl? Tutti lo sapete? Perché Chernobyl non è altro che una località. Quindi vi potete informare dov'è questo luogo, questa città, e perché è diventata estremamente nota. Bene. E potreste anche andare a vedere cos'è successo lì a Chernobyl. Chi vuole può utilizzare il cellulare, eh? In questo frangente sì che lo potete utilizzare. Cos'è successo a Chernobyl? Tra l'altro è assai interessante vedere tutta quella regione oggi e sapere che la popolazione che viveva nei pressi di questa grande centrale nucleare non ci vive più. Cosa succede se la popolazione si allontana? Abbandono. Ma poi cosa succede? Prego, Alessio. Vengono costruiti altri edifici. Eh? Vengono costruiti altri edifici, quindi vuol dire che viene anche occupato il territorio. E perché dici altri edifici? Scusi, stavo dicendo che la gente se ne va da lì. Ah, tu dici altrove vengono costruiti. Sì, appunto, io chiedevo, ma lì, in quella zona, cosa succede? Sentiamo Mohammed. Allora, vi devo dire, è importante non fare gli spettatori. Molti di voi stanno così. Cos'è importante invece? Dire, anche se sono poche cose, quelle che pensate, e dovete focalizzare, se vi vengono in mente domande, se volete aggiungere qualcosa. Se stiamo facendo una discussione, se vi dovete chiedere sono d'accordo, non sono d'accordo, se fate delle associazioni di idee, è chiaro? Dovete muovere il vostro pensiero, muoverlo in tutte le direzioni, non dovete avere timore. Bene. Lei è morta, ormai è recuperabile. Ah, ma ancora la due. Ascolti? Allora, aspetta Mohammed, vorrei che qualcun altro intervenisse. Cosa vuoi dire? Non sapevo che furono due le esplosioni. Ok. Quindi, intanto stiamo parlando di un altro aspetto importantissimo. L'energia nucleare, le centrali nucleari, gli incidenti nucleari. Chernobyl, molto famoso, quando è accaduto, che conseguenze ha avuto e soprattutto che conseguenze continua ad avere? Queste sono le altre domande. Perché la domanda sottostante è: ma perché abbiamo fatto questa scelta? È stata una buona scelta? Dobbiamo tornare sulle centrali nucleari? Ecco, queste sono per problematizzare, diciamo. Bene. Connesso al nucleare civile, cosa c'è? L'energia nucleare, l'energia atomica, a cosa è connessa? A un altro aspetto. F, quale guerra? Aspetta, lei che non mi ha parlato. La guerra fredda, sì, certo. Cos'è la guerra fredda? E l'Unione Sovietica? Chiudete un po' così si sente meglio. Sì, quella guerra tra una guerra. Però era tipo. Perché è stata definita fredda? Perché non c'erano rapporti, cioè scontri. Non scontri diretti, ma uno scontro indiretto. Ma si chiamava guerra fredda. Non era calda. Perché anche se fa freddo. Altri interventi? Aspetta, vediamo se ci sono interventi nuovi di chi. Cos'è la guerra fredda? Vi ripeto, mentre discutiamo, chi vuole può consultare il cellulare, se volete. Della NATO, sì. Qual è il corrispettivo della NATO? Qual è stato il corrispettivo della NATO? La NATO è un'alleanza che si autodefiniva difensiva. Qual è il corrispettivo della NATO? Qual è stato fino al 91-92? Si chiamava Patto di Varsavia. Va bene? Un'organizzazione militare invece dell'Unione Sovietica, della parte avversa, diciamo così. Però il Patto di Varsavia si è disgregato. Non c'è più, dal 91-92 credo, potreste controllare guardando sulla meravigliosa rete internet, dove è importante saper controllare le fonti. 91, primo luglio 91. Ok, non c'è più dal primo luglio 91. Allora, stiamo dicendo il nucleare militare. Quindi di cosa stiamo parlando? Prego. Perché parli a voce così bassa? Tirala fuori la voce, tirala fuori, va bene, Mohammed. Devi superare te stesso. Hai un sacco di cose importanti da dire, ti devono ascoltare. Va bene? Quindi ridillo. Esattamente, la seconda guerra mondiale è finita come? Hiroshima e Nagasaki. Allora pensate che dobbiamo metterci, ci possiamo mettere nei panni di chi è stato mandato lì a guidare quell'aereo che ha sganciato quelle bombe. Cosa significa sganciare delle bombe che nei primi pochi secondi le bombe atomiche sganciate nei primissimi secondi a causa delle temperature che si raggiungono intorno al milione di gradi, quelle di allora, hanno vicino all'ipocentro, diciamo, nel primo cerchio, poi vi leggerò qualcosa su questo, hanno, per via dell'enorme calore, sono morte immediatamente nei primi secondi dall'esplosione intorno a 100.000 persone. Capite che significa? Qui dobbiamo chiederci, ma la guerra atomica è una cosa, è un pericolo passato, è una minaccia fugata, non c'è più, è finita la guerra fredda. Non siamo in una situazione di pericolo? E poi dobbiamo chiederci, ma quali sono i danni ambientali connessi all'uso delle armi atomiche? Vi dico subito, prego. Per la questione della bomba atomica, se non sbaglio, c'era anche questa guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord, che era Ti riferisci a quando? Poco tempo fa. Poco tempo fa, sì. Certamente. Sì, allora anche qui c'è una domanda importante che bisogna farsi e cercare risposta. Oggi quanti sono i paesi dotati di armi atomiche? Va bene. Anche per questo utilizzate la rete. Fate i confronti tra le varie informazioni che trovate e cercate, per esempio, una cosa importante è andare a vedere su siti più ufficiali e confrontare le informazioni che si trovano, verificare le fonti. Va bene. Allora, la domanda importante è: ma quanti sono i paesi al mondo oggi che sono dotati di armi atomiche? Questo rende il mondo un luogo più sicuro o meno sicuro? Prego. Lei l'anno scorso ha accennato anche perché non facevano, cioè loro, tra Russia, sì, Unione Sovietica e Stati Uniti, perché non è successa veramente la guerra? Perché tutti e due cercavano di armarsi, i credenti, dire io ho questo, però non si lanciava nulla, perché? Perché avrebbe devastato tutto il mondo. Sì, diciamo, avevano paura della distruzione reciproca. Tu dici. Sì, sai, giornalisticamente si definiva l'equilibrio del terrore. Okay. Sì, e o anche veniva definita MAD, MAD, che vuol dire in inglese, non so se si pronunci MAD o MAD. Ma è per dire pazzo, ma è un acronimo che significa mutua autodistruzione, mutua, cioè pazzo in inglese, di entrambi i contendenti. Beh, dovete sapere che quella dottrina militare fondata sull'equilibrio del terrore, cioè io cerco di armarmi, se tu ti armi io mi armo anch'io e così via, così siamo sempre in equilibrio. Quella dottrina ora da una parte è stata abbandonata. La dottrina vigente oggi da parte americana, la dottrina militare strategica, è definita quella del first strike atomico. First, primo, strike, colpo, atomico. Cosa significa tradotto? Significa io mi organizzo in maniera tale da infliggerti a sorpresa, quando meno te l'aspetti, un attacco talmente potente, talmente devastante, che mi assicura che la tua risposta sarà fievole o non ci sarà. E se ci sarà, mi organizzo per parare il colpo. Per esempio hanno installato in Romania e in Polonia, che sono diventati paesi NATO, missili intercettori che hanno anche una funzione d'attacco, loro li definiscono solo di difesa. Sono missili che dovrebbero intercettare altri missili. Bene. Chiaramente noi ci dobbiamo chiedere, ma la guerra ambientalmente è sostenibile? Io però non ho visto nemmeno un cartello alle manifestazioni. E vi ripeto un'altra cosa prima di andare via. Quando ci sono le frecce tricolori, dovete sapere che consumano tra 10 e 14 mila litri, alcuni in certe condizioni di volo anche di più, di cherosene all'ora di volo. E poi vi farò fare un esercizio di confrontare quante volte consuma di più rispetto a un'automobile. Allora, considerate questo dato, 14 mila litri di cherosene per un'ora. Considerate un'automobile che viaggi per un'ora, fate il confronto, fate il rapporto, poi eventualmente lo ripassate insieme alla lavagna. E calcoleremo anche le emissioni di CO2. Ciao. troppo, troppo, troppo. Sì.